Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. È in partenza un'altra rassegna che non vogliamo assolutamente perdere, già dal nome Gemini. Stiamo entrando nella costellazione dei Gemelli. Io con il co-curatore della rassegna stessa, Marco Ligurgo, disponibilissimo ai microfoni di Radio Città Fujiko, al volo sono riuscito a intercettarlo per darne breve anticipazione. Ho detto Gemini è una sorta, visto che stiamo entrando anche nella costellazione, vi sono riferimenti, convinto così di dirne una delle mie. No, qualcosa c'è, anche perché è una sorta di gemello di quello che invece è il contenitore di Robot, che sarà poi portato in un altro spazio, sempre con la curatela di Marco Ligurgo e Antonio Puglisi. Beh, intanto allora avremo un protagonista che avete già ascoltato più volte nelle colonne sonore del Breakfast Club, risponde nome all'anagrafe di Simon Green, meglio conosciuto come Bonobo. Beh, insomma, di questo parleremo con Marco all'interno di questa anticipazione dedicata a Gemini 2024. Il segno zodiacale dei Gemelli, non è che in questo periodo è nato proprio per tutto ciò il nome del festival, Marco? Sì, era una delle varie motivazioni, ti devo dire, cioè nel senso c'era da un lato il fatto dei Gemelli, dall'altro il fatto che fosse il gemello di un altro festival che poi in realtà non lo è, così via, quindi da lì era nata la genesi del nome. E infatti ho intuito bene in parte. Parliamo di Robot per quanto riguarda il castore polluce di questa espressione elettronica, di grande originalità e anche grande crescita e continuità, tra l'altro. E per quanto riguarda una diversificazione, cosa ci puoi dire, Marco? Beh, sicuramente diciamo che Gemini nasce come la volontà di essere un festival più trasversale, più pop, che abbracci più pubblici, che abbia più contaminazioni di suono e che si distacchi, e questo magari tra la prima e la seconda edizione si inizia a notare, si noterà sempre di più in futuro, e speriamo di andare avanti per diversi anni, abbracci sempre più altri suoni oltre a quello dell'elettronica, quindi si distacchi diciamo dal centro dell'elettronica e vada anche verso rock, jazz, afro e tutte le altre contaminazioni che ci piacciono tanto. A tale proposito abbiamo un'anticipazione imminente con l'arrivo di un produttore che racchiude forse un po' diverse caratteristiche che abbiamo citato. Il nickname, il nome d'arte è Bonobo, ci puoi dire qualcosa di più? Beh, sicuramente Bonobo è uno dei grandi nomi di questa edizione di Gemini, che attendiamo con ansia nel suo DJ set che farà questo sabato al Dumbo per la preview ufficiale diciamo di Gemini. Che dire, è un artista che con i suoi dischi ha diciamo segnato la musica degli ultimi 15-20 anni, sicuramente un produttore enorme che ultimamente ama tantissimo fare anche dei DJ set, che sta facendo un po' in giro per tutto il mondo. Abbiamo la fortuna di averlo qui a Bologna, tra l'altro nell'unica data italiana di questa parte di tour primaverile che sta affrontando in giro per l'Europa e per il mondo. Sarà sul palco alla 12:15 per un set di circa 2 ore. Prima di lui ci sarà un altro, diciamo un localiro, come può essere God Bless Computers, che verrà a presentare il suo live del nuovo disco che è uscito da pochissimo. E dopo di lui a chiudere ci sarà invece il DJ set di Uovo, che è un altro dei DJ storici, Pasta Boys bolognesi, quindi sì. Un mix di localiro diciamo è un nome internazionale abbastanza importante. Poi di là in temporanea ci sarà invece il set di Deda Kazuma, che anche lui diciamo non ha bisogno di presentazioni, artisti diversi ma artisti accomunati sicuramente da alcune sovranità e dalla passione per la musica. Dà occasione anche di fare una piccola bio per quanto riguarda uno speciale, nello speciale Last Minute Altri Suoni. Simon Green, classe 1976 e grande classe nella ricerca, nella capacità di proposta, è uno degli artisti che nasce sulla scia del post acid jazz. Il suo primo lavoro per True Tough Record avrà luce nel 2001, Animal Magic. Questo già mi lasciava percepire, siccome ovviamente sono un grande appassionato di queste sonorità di intersezione tra la produzione musicale di ricerca vera e propria, con un lavoro di scavo, di approfondimento dal passato nel soul, nel funky, con una traslazione grazie alla produzione elettronica, portando poi la composizione nel lavoro di DJing. Ecco, in questo caso sì, la mia affermazione di DJ musicista per quanto riguarda Bonobo mette molto in discussione quello che ho sempre affermato e che continuerò ad affermare, ma per me Bonobo, pur essendo molto legato e ultimamente si sta proponendo molto come DJ, resta per me comunque un musicista. Sono gli anni del down tempo, sono gli anni di questa musica che non solo nel quattro quarti ma anche nel lavoro di proposta leggibile, in un lavoro che dà della fruizione, una capacità di oltre e nello stesso tempo di intuizione e di un'estetica. Inizia per True Tough, approda subito alla label che rappresenta tutto quello che ho detto più di ogni altra, che è la Ninja Tune. Bellissimo questi stop and go, questo lavoro e la capacità ritmica e non solo armonica nella ricerca per le voci. Tra l'altro in questo brano abbiamo quel brano del buongiorno che spesso metto, Heaven for the Sinner, magari lo ascoltiamo più avanti per la collaborazione con Erika Badu. Però procediamo nel programma di Gemini, grazie a Marco Ligurgo, co-direttore artistico. Questa è un'anticipazione, entriamo poi nel programma per i giorni successivi, Marco? Sì, allora il festival poi naturalmente sarà il 17 e 18, che è un venerdì e un sabato della prossima settimana. Il venerdì salirà sul palco principale Maria Chiara Arzirò, che presenterà in anteprima nazionale il nuovo album appena uscito. Maria Chiara è un'artista italiana che però vive a Londra, che è al suo secondo album, sta andando veramente bene, è un artista in forte crescita, verrà con la sua band a presentare il nuovo disco, che è un mix, se vuoi, fra un'evoluzione del rock nella chiave elettronica, come piace a lei, quindi sarà sicuramente un'anteprima molto interessante. Subito dopo di lei sul palco salirà poi Christian Loeffler, anche lui col disco nuovo, che verrà a presentare in Italia in sole due date. Una di queste sarà appunto quella di Gemini, nuovo show audio video. Christian, un altro artista di musica elettronica ma con sonorità più pop, più melodiche, giro da diversi anni, un altro nome credo abbastanza atteso, abbastanza importante di questa tre giorni di Gemini. E poi dopo di lui ci sarà il DJ set a chiudere del duo franco-algerino del Desid Arab, duo con veramente, a me piacciono tantissimo, credo che sia la prima volta che vengono a Bologna, che loro hanno delle sonorità veramente molto variegate, sicuramente in chiave etnica, araba se vogliamo, un po' come le loro origini, però anche rock e anche elettronica, quindi tanto un set molto trasversale, così come vuole essere Gemini. Da ricordare anche nella temporanea, nel secondo stage, il DJ set di Bruno Bellissimo, che è un altro artista locale, cioè nel senso che vive a Bologna e che anche lì fresco di nuovo disco, con le sue sonorità più invece italo disco. Thank you. quanto riguarda il lavoro che è stato citato, con un flirtare con sonorità medio orientali, ecco, a questo proposito cito Zanen Kamien. Molto sottovalutate queste sonorità, purtroppo, mentre invece per me la qualità è di un insieme, oltre che con possibilità di espressione variegata, come state ascoltando, anche veramente di ricerca e bellezza estetica. Da un tempo il dub, ci spostiamo, facciamo un giro intorno in questo breve spazio per presentare Gemini, facendo qualche divagazione per gli scienziati di Vienna che nel dub e nel down tempo, Kruder and Dorfmeister, ecco. Sabato invece ci sarà ad aprire la serata il concerto di Ginevra Nervi, che è un'altra artista italiana molto molto interessante, che verrà a presentare in live audio video con pezzi del suo ultimo disco e pezzi del nuovo disco che uscirà l'anno prossimo. E dopodiché ci sarà un altro dei live attesissimi, che è quello di Rival Console, che lui, oltre a fare queste sonorità un po' dream, se vogliamo, molto psichedeliche, ha veramente degli show di solito molto molto particolari, con laser, fumo o visual molto particolari, per cui un altro live che attendiamo probabilmente a Bologna, mancava da tanti anni, quindi sicuramente sarà un'ottima occasione per poterlo vedere. Poi ci sarà una leggenda della house anni 90, quindi un momento remember, se vogliamo, anni 90, grazie a Tony Empress, che vabbè, non ha bisogno di presentazioni, insieme a quei due o tre DJ che hanno fatto la storia della house music di Chicago, che praticamente la riportano in quella chiave tutt'oggi, per ricordare anche da dove veniamo come genere, certo, della house music. E poi dopo a chiudere ci saranno i Dirty Channels, che sono un duo italiano che si stanno facendo ben notare a Ibiza e nei vari club in giro per l'Europa, con un suono house invece più contemporaneo, ma che sicuramente va a pescare in quelle radici lì di Tony Empress. E voglio ricordare anche nella temporanea la presenza di due grandi DJ, che sono gli Optimo e Spazio, che sono un duo di Glasgow, famosi per la loro etichetta Optimo Music, che ha sfornato veramente tantissime chicche e tantissimi artisti, e che sono delle vere e proprie leggende in Gran Bretagna, grazie appunto a delle contaminazioni fra il rock e l'elettronica super interessanti. E tutto questo per Gemini, oltre anche un lavoro di grande originalità, uno spazio che cronologicamente comprende, oltre che l'emozione, la cultura e la storia di un'importantissima frangia musicale. Grazie Marco Ligurgo, co-direttore artistico della rassegna. Ci diamo appuntamento per seguire ovviamente altri percorsi, altre iniziative. Ti ringrazio tanto per questa anticipazione e ti auguro una buona giornata. Grazie a te, William, un abbraccio a tutti, buona giornata. We don't need no truth, got plenty, now it grows on trees. God, I'm glad it's not a race I'd lose. There's no saint and there's no sinner, done more dirt than me. Another who can do more right than me. Eccola. Lei è la voce di Erika Badu con questo Paradiso per i peccatori, la produzione di Simon Green in arte e Bonobo. Io non ho più tanto il fisico per arrivare a certi orari, però caspita, DJ set di Bonobo. e sarà appunto una preview di quello che è la rassegna Gemini. Mi raccomando, seguitene, avete la possibilità, tutto online, questa è un'anticipazione, poi nel prossimo weekend ci saranno gli appuntamenti che Marco ha elencato qui al Breakfast Club in questo last minute, altri suoni, un po' di musica, pubblicità, poi torniamo in scena, torniamo in diretta, ma in scena, ok?